Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Quattro ere, quattro supporti, quattro generazioni, quattro generazioni, quattro generazioni. Vinile, magnetico, laser, file. Il cammino della musica leggera viaggia sul binario del progresso tecnologico. Muta col tempo nella forma, nello stile, negli strumenti per assemblarla, diffonderla, venderla, ma rimane per sempre intatta nella sua primaria missione. Suoni e parole per orecchie e cuore. Esiste tuttavia un'esperienza che nessuna cuffia, nessuna cassa, nessun hi-fi sarà mai in grado di eguagliare. La forza della musica live. La folla, il concerto, l'individuo che si autoannulla per divenire cellula di un organismo collettivo più grande. Massa, blob, colonia che salta, suda, spinge, piange, grida. Un'emozione diretta, senza tramite, sparata in vena dal creatore al consumatore come un'iniezione di adrenalina nel cuore. Le mani, i piedi, le voci. Thank you! Yeah! Thank you very much! Oggi il nostro viaggio ci porta alla scoperta dei più grandi album live del millennio prima di questo. Canzone dopo canzone, stadio dopo stadio, concerto dopo concerto, in una raffica di scatti col flash. Preparatevi a saltare. Inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Gennaio 1973. Honolulu, Hawaii. Elvis è fottuto, pensano tutti. È marcio di alcol, è cariato dalla droga. Non salirà mai su quel palco. Non canterà mai in mondovisione davanti a più di un miliardo di persone. È vecchio, grasso, superato. Elvis è acqua passata. È un manifesto ingiallito da appendere al muro come Marilyn, Kennedy, James Dean. Ecco cosa pensano tutti. E non sanno quanto si sbagliano. Perché Elvis non è un artista, è una leggenda. Trattiene il respiro e indossa la sua tuta American Eagle bianca, coperta da un mosaico di pietre colorate. Infila il collo nella tracolla della chitarra, estrae il plettro dalla tasca e propaga il suo mito. Thank you. Well, it's the one for the money. Giugno 1967, Monterey, California. Si fanno chiamare hippie e sotto il palco sono 200.000. Capelloni, con le camicie a fiori aperte e la lingua gialla di LSD. La line-up dice che tocca un negro di Seattle, imposto con una telefonata da Sir Paul McCartney, una specie di scheletro con la bandana rossa e la chitarra dalla parte sbagliata. Lo conoscono ancora in pochi e ha 39 minuti per diventare qualcuno. Ma a lui ne bastano due. al netto dei pochi applausi. Il suo rock è un rito voodoo, un baccanale, un'orgia. E la chitarra è la sua puttana. La scopa, la cavalca, la morde, la graffia dietro la schiena, la sbatte contro l'ampli, contro il microfono, la cosparge di alcol, la bacia, la brucia. E dalle fiamme dell'inferno esce una nuova rockstar, Jimi Hendrix. Londra. Gary Flaherty fa il giornalista musicale per la rivista The Times e stasera è stato inviato a vedere il concerto di un giovane artista giamaicano al suo debutto in Europa. Nonostante la segretaria gli abbia riservato i posti migliori, Gary non riesce a vedere niente. L'area del Lyceum Theatre è satura di fumo e si appiccica addosso con un odore tostato e dolciastro. I servizi di sicurezza fermano la musica. L'impianto antincendio rischia di andare in tilt. Una squadra di operai viene inviata sul tetto per scoperchiare le grandi finestre vittoriane. La coltre di fumo si disperde lentamente per le strade di Covent Garden e lascia entrare nella sala i suoni della città. È questo il segreto dietro lo speciale riverbero che avvolge la voce del pubblico mentre canta insieme a Bob Marley and the Wailers No Woman, No Cry.

20 ottobre 1977. Il volo charter Convair CV-300 della L&L Company, diretto a Baton Rouge, Louisiana, sta sorvolando le paludi del Mississippi. Il tempo è sereno, il cielo sgombro, ma la strumentazione di bordo segnala che qualcosa non va. Un'avaria, forse una perdita di carburante. Non ci sono aeroporti nelle vicinanze. Il pilota lancia una richiesta di soccorso alla torre di controllo. Poi spinge in giù la cloche e tenta un atterraggio di emergenza fra gli alberi della foresta di Gillsburg. Un'impresa disperata, una picchiata, un avvitamento, un ultimo mayday. Poi, schianto, esplosione, 6 morti. 4 di loro sono i membri della più famosa band Southern Rock del momento. Il Lynyrd Skynyrd. I do believe it's time for the South to rise. Again, baby. Yes. 19 settembre 1981, New York City. La grande mela ha un cuore, o per meglio dire, un torsolo. Uno spiraglio verde di 3 km quadrati per correre, leggere, respirare, rinchiuso dalle barriere di grattacieli dell'Uptown di Manhattan. È il Central Park e per la prima volta dal 1856 sta morendo. La speculazione corre, il cemento avanza. Gli yuppie di Wall Street vogliono nuovi lotti per parcheggi, buildings, business. Il polmone verde della capitale del mondo sta per essere soffocato dalla calce. Per salvarlo dall'estinzione bastano 3 persone. Il sindaco Ed Koch e la reunion di un duo che da qualche anno non si ama più. Si chiamano Paul Simon e Art Garfunkel. Per ascoltare la loro musica, per salvare i loro alberi, accorreranno a Central Park oltre 500.000 di newyorkesi. Il terzo più grande concerto di sempre nella storia degli USA. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still in the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one dare disturb the sound of silence. Fool said I, take my arms that I might reach you, but my words, it's like silent raindrops fell. An echo della musica si ferma e torna tra poco solo su Radio 105. Questo è Polaroid.

Morrison, Colorado. Sta andando tutto male. Piove da 10 giorni un'acqua grigia e gelida che non lascia scampo. Le montagne di arenaria si sciolgono in torrenti rosso sangue che inondano le strade. Nemmeno le jeep riescono ad arrampicarsi. La strumentazione è sepolta dal fango. Un tecnico è rimasto folgorato da un corto e la gente non arriva. 9.000 prevendite, nessuno all'orizzonte. Bono dice a The Edge: vaffanculo, annulliamolo. Sì, ok, ma gli sponsor, la troupe televisiva, l'etichetta. Alla fine il concerto si farà, diventerà un disco. Sventolerà sul palco la bandiera bianca di quella maledetta domenica. There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday. I can't believe the news today. prigionieri di schermi rettangolari, convinti che la vita sia una questione individuale. Io. Quello che penso, quello che voglio, quello che merito, quello che desidero, quello che sono, quello che non sono, fino a diventare prigionieri della nostra autodeterminazione. E così, lentamente, ci dimentichiamo che la porzione più importante della quale siamo composti non è ciò che siamo per noi stessi, ma quello che siamo per gli altri. Collettivo, massa, comunità. È questo che ci rende umani. Una persona accanto all'altra, comunicante, attigua. La musica del tempo che abbiamo raccontato ci lascia una lezione. Non si facevano selfie in formato Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica, torna sabato prossimo. Sabato prossimo. Alle 19. Su Radio 105. Produzione Wender. Fabio Lisei. Voce Lucilla.